Chissà se è vero quello che già vi ho detto l'altra volta. Non ho avuto modo di trovare né conferma né smentita che Edward Bostich, questo nome, sia un nome dietro cui si nascondono due quindicenni di Milwaukee che registrano nella vasca da bagno di uno dei due, della casa di uno dei due. Ce li siamo appena ascoltati, Edward Bostich, con il pezzo intitolato A Lone Wolf. Invece in apertura di Eclettica, sicuramente molto in linea con le parole di John Steinbeck, The Felicity Brothers, questo nuovo gruppo che proviene dalle Catskill Mountains, che altre volte con un altro brano avevamo accostato ai Pogues. Invece in questo caso era assolutamente dylaniana la San Antonio's Burning che ha aperto Eclettica. E si rimane negli Stati Uniti, che poi vi preannuncio però abbandoneremo, in quanto andiamo ad ascoltare Back to Blonde, nuova formazione, nuova per quanto riguarda Eclettica, poi loro fanno musica da un po' di tempo. Da New York City, Back to Blonde e Meeting in the Woods, che è il titolo sia della canzone che ci ascoltiamo ma anche dell'album che uscirà in primavera. Secret. Alle 10.45 tutto era finito. La città era occupata, i difensori abbattuti e la guerra finita. L'invasore si era preparato per questa campagna con la stessa cura che per altre di maggiore ampiezza. Quella mattina di domenica, il postino e la guardia municipale erano andati a pesca sulla barca del signor Correll, il popolare negoziante. Egli aveva imprestato loro la sua snella barca a vela per tutta la giornata. Il postino e la guardia municipale erano parecchie miglia al largo quando videro il piccolo e nero trasporto carico di soldati passar loro davanti silenziosamente. Come funzionari comunali la cosa li riguardava direttamente e i due volsero subito la prua verso terra, ma naturalmente il battaglione si era già impadronito della città quando essi approdarono. Questo era l'incipit de La luna è tramontata di John Steinbeck. Come on.